Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17:45 secondi in questo istante, ben ritrovati a Focus Economia, ultimo appuntamento per questa settimana. 349-238-6666, il numero a cui inviare i vostri sms. I temi che approfondiremo nella puntata di oggi: parleremo delle piccole e medie imprese italiane, di come stanno vivendo questa crisi, di un accordo tra Intesa San Paolo e la Confindustria, e avremo una testimonianza dal territorio per capire poi come concretamente stanno vivendo i piccoli e medi imprenditori. E poi andremo a vedere come sta reagendo a questa crisi un settore particolare, che è quello dell'industriale delle carni, un settore strettamente legato al Made in Italy, che sta avendo problemi più che altro dal punto di vista della contraffazione a livello globale. Ovviamente ci occuperemo come sempre di mercati. Oggi i listini sono orfani di Wall Street, chiusa per festività, e andiamo però a vedere che cosa sta succedendo in Europa. Parigi cede lo 0,15%, Francoforte lo 0,42%, Londra guadagna uno 0,28%, a Milano il FTSE Italia All Share è in flessione dello 0,20%, il FTSE MIB dello 0,09%. Ovviamente orfani di Wall Street, i listini europei hanno meno stimoli e meno spunti, quindi una giornata piuttosto debole fino a questo momento. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,39,95 in questo istante. E adesso le nostre notizie in breve. Partiamo dal petrolio, che però dobbiamo darvi ovviamente il dato riferito al mercato in after hours, perché appunto è chiusa Wall Street, in calo a $66.31. Restiamo negli Stati Uniti, ci vorranno ancora mesi per uscire dalla crisi, questo è quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama commentando le nuove negative cifre della disoccupazione americana. Forse lo ricorderete, ne abbiamo parlato ieri, salita al 9,5%. Sentiamo questo passaggio di Obama. New ways of producing and saving and distributing energy offer. I nuovi modi di produrre, risparmiare e distribuire energia offrono un'opportunità unica per creare milioni di posti di lavoro per gli americani. Ovviamente è una questione quanto mai attuale, viste le notizie sul mercato del lavoro, secondo cui lo scorso mese si sono persi 467.000 posti di lavoro. Nel primo trimestre la media mensile di posti di lavoro persi è così di 400.000 unità. Si tratta di un dato meno devastante dei 700.000 posti di lavoro persi in media al mese nel trimestre precedente. Nonostante sia un segnale che la recessione sta rallentando, so che non è di gran conforto per chi il lavoro l'ha perso. Abbiamo preso delle misure straordinarie per far fronte alla peggiore recessione di sempre e per offrire un sostegno a chi ha subito le conseguenze di questa tempesta economica. Ma come ho detto appena messo piede alla Casa Bianca, ci sono voluti anni per finire dentro a questo enorme problema e ci vorranno ancora alcuni mesi per uscirne. Restiamo negli Stati Uniti, nuova ondata di fallimenti bancari. 6 banche dell'Illinois e una del Texas sono state poste sotto sequestro, portando il totale dei crack bancari di quest'anno a 52, un livello che non si vedeva dal 1992. Mentre il pacchetto di misure d'emergenza voluto dall'amministrazione Obama sembra aver tamponato l'emorragia delle grandi banche, sono spesso gli istituti regionali, quindi quelli più piccoli, ad accusare il colpo della recessione, delle crescenti insolvenze sui crediti concessi sulla casa e le proprietà commerciali e dei prodotti del credito strutturato finiti male. Secondo gli analisti del Wall Street Journal, quest'anno Goldman Sachs spenderà circa 20 miliardi di dollari in remunerazioni, più o meno 700.000 euro a dipendente, il doppio dei 10 miliardi di dollari che la banca ha ricevuto dai contribuenti americani. Un dato a dir poco clamoroso, sia tenendo presente lo scenario internazionale, sia in considerazione del fatto che persino nel 2007, in un contesto che era completamente differente, le remunerazioni medie si erano fermate a $661.000. In Italia adesso, se Obama si dice molto preoccupato, Berlusconi invece non sembra poi esserlo così tanto. Ciò che di peggio doveva accadere è già accaduto, ha detto il premier Berlusconi parlando al workshop L'Aquila Day al Ministero dell'Economia. Sentiamolo. Ciò che di peggio doveva accadere è già, a mio parere, accaduto. Ciò che doveva accadere nel mondo delle banche e ciò che doveva accadere per quanto riguarda la svalutazione degli assets nei mercati è accaduto. Chi doveva fallire è fallito, chi si doveva togliere dal mercato si è tolto. Oggi tutti coloro che facevano della speculazione sui mercati, la loro principale occupazione non è più presente sui mercati. Oggi quindi a me non pare assolutamente che ci siano altre situazioni che dobbiamo temere. Il premier ha parlato poi anche dei conti pubblici, di cui vi abbiamo raccontato e cercato di spiegare al meglio delle nostre possibilità ieri. Cercheremo di essere sentimentalmente portati a vedere la dura realtà dei conti e della crisi, guardando avanti e sperando in un futuro migliore. Questo è quanto ha detto Silvio Berlusconi. Sentiamolo. Cercheremo di essere anche noi sentimentalmente portati a vedere una dura realtà, che è quella dei conti della crisi attuale, guardando avanti e sperando di spiegare anche noi le ali verso un futuro migliore. La cosa più terribile, dovete sapere, è stare al governo e ricevere le giuste richieste dei cittadini, chiamare il ministro dell'economia, il quale come risposta ti manda il duro responso dei conti. È come mettere le mani in tasca per fare una spesa e tirarle fuori vuote perché non c'è un euro nella tasca. E questo è veramente un qualche cosa che io nella mia vita di imprenditore non avevo mai conosciuto. Però queste sono le situazioni e dobbiamo essere comunque ottimisti, perché stiamo vedendo che la situazione non sta peggiorando, ma sta migliorando. Penso che non ci siano proposte alternative per uscire dalla crisi se non la guerra contro la paura. Questo è quanto ha detto Berlusconi. Se ci fossero altre indicazioni per costruire un futuro migliore, ha aggiunto il premier, siamo comunque qui ad ascoltarle ed accettarle. Ovviamente non sono mancate le reazioni dell'opposizione alle parole di Berlusconi. È inaccettabile che il governo neghi la crisi e continui a voltare la faccia dall'altra parte. Questo è uno schiaffo alle famiglie e alle imprese, così il segretario del PD Dario Franceschini a margine del convegno degli ex popolari a Norcia. E poi ancora, mi sembra presto per dire queste cose, prima guardiamo i dati del PIL, i dati della disoccupazione, i dati della discesa della cassa integrazione, solo allora potremo fare queste affermazioni, ovvero che il peggio è passato. Questo è quanto ha detto il segretario della CISL, Raffaele Bonanni. La presidente degli industriali: non c'è più la percezione di essere sull'orlo del precipizio, probabilmente il peggio lo abbiamo alle spalle, c'è qualche segnale di miglioramento, ma l'emergenza non è finita. Avremo ancora davanti alcuni mesi difficili prima della ripresa, che comunque arriverà. Questo è lo scenario indicato dal presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. E poi ancora, la Marcegaglia ha detto: la detassazione degli utili reinvestiti prevista dal decreto anticrisi varato dal governo è una misura positiva per supportare le imprese, ma stiamo lavorando per cercare di allargarla ad altri settori. Questo è quanto ha detto il numero uno della Confindustria a margine dell'Assemblea degli Industriali di Grosseto. E ancora, chiaramente, se ci fossero veramente questi 23 miliardi di euro per il pagamento dei crediti da parte della pubblica amministrazione, questo è un altro delle misure previste nel decreto anticrisi, sarebbe un passo in avanti molto importante, ha detto la Marcegaglia. Noi continuiamo a fare appello alle banche perché non lasciano sole le imprese, ha detto la Marcegaglia, richiamando e condividendo le parole in questo senso pronunciate dal presidente della BCE Jean-Claude Trichet, sottolineando che quello della stretta creditizia è una delle vere emergenze. A proposito della stretta creditizia, le banche stanno vanificando gli sforzi del governo per aiutare le piccole e medie imprese. Questo è quanto ha sostenuto in un comunicato Roberto Castelli, sottosegretario per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Adesso noi andiamo ad affrontare il primo dei nostri temi di approfondimento, ovvero le piccole e medie imprese italiane e la crisi. Un po' po' di dati. Secondo la Confindustria ci sono almeno 2 milioni di imprese che denunciano difficoltà nell'accesso al credito. Secondo la Banca d'Italia, la relazione del governatore Draghi del 1 giugno, l'8% delle imprese ha avuto un no ad una richiesta di finanziamento, il valore più elevato dalla metà degli anni 90. Tre anni fa la percentuale era al 3%. Oltre il 10% delle imprese dichiara di aver ricevuto da ottobre 2008 in poi richieste di rientri anticipati, un fenomeno che riguarda tutte, grandi e piccole, ed è un fenomeno che è maggiormente avvertito nel Mezzogiorno. Secondo la Confcommercio, per i fidi fino a 250.000 euro vengono richieste garanzie pari al 90% dell'importo. Sopra i 25 milioni le garanzie chieste sono del 20%. Oggi è stato siglato un accordo tra l'Istituto di Credito Intesa San Paolo e la Confindustria, un accordo che promuove delle misure per mantenere l'afflusso di credito al sistema produttivo attraverso interventi sulla liquidità e la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. La banca mette a disposizione un plafond fino a 5 miliardi di euro di linee di credito e finanziamenti. L'accordo è stato presentato dall'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passer, e dal vicepresidente di Confindustria, dal presidente del Consiglio centrale della piccola industria, cioè Giuseppe Morandini. Intervistato da Alessio Maurizi, il consigliere delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passer ha voluto proprio sottolineare come i finanziamenti alle aziende siano vitali per gli stessi istituti di credito. Sentiamolo. Noi stiamo impegnandoci per fornire credito a tutte le categorie di aziende, le molte che stanno comunque avvantaggiandosi in questo periodo e stanno continuando a rafforzarsi, e quelle che sentono maggiormente la crisi, con dei prodotti, con degli interventi concordati anche con Confindustria, che andranno proprio nella direzione di aiutare quelle aziende più colpite. Questa è una cosa. Il nostro impegno porta a affidamenti, linee di credito al Paese per 500 miliardi, che è quasi un terzo del PIL, quindi il nostro impegno non solo è confermato, ma aumenta. Non solo siamo disposti, è il nostro interesse, noi viviamo se diamo credito, cioè noi cresciamo se crescono le imprese, cioè noi siamo in quel business lì e stiamo cercando tutti i modi per trovare anche le modalità in un periodo difficile come questo per farlo. Le cifre che stiamo mettendo a disposizione, secondo me, poi sono fattualmente la dimostrazione di questa volontà. Giuseppe Morandini, presidente della piccola industria di Confindustria, sentiamolo. Quello che ci unisce alle banche in questo momento, in particolare con Corrado Passera, è la condivisione di una responsabile preoccupazione per le difficoltà che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. Questa banca ha deciso di mettere a disposizione della piccola impresa tre strumenti che entrano nella gestione quotidiana e che migliorano la gestione degli insoluti, la patrimonializzazione e la possibilità di spostare i mutui di almeno un anno. C'è la necessità poi che intervengano anche misure fiscali che consentano la patrimonializzazione delle piccole imprese. Ci aspettiamo la detassazione degli utili che rimangono in azienda, ma soprattutto ci aspettiamo una bella moratoria su Basilea 2, perché i parametri di Basilea vuol dire non dare credito nel 2010 alle nostre imprese. E infatti, proprio come stava dicendo Morandini, occorre rivedere i parametri di Basilea 2. Sentiamolo. Quando lei si trova a gestire dei fatturati che dal secondo semestre del 2008 calano del 10, 20, 30 e anche 50%, problemi di patrimonializzazione, problemi di liquidità nelle nostre aziende ci sono, c'è la necessità di avere dei riferimenti patrimoniali diversi da quelli che Basilea 2 propone. Chiediamo al regolatore, quindi al governo e chi deve fare le regole di Basilea 2, di sospendere l'applicazione di quei parametri per permettere alle imprese di essere valutate dal punto di vista strategico e alle banche di non dover impegnare eccessive risorse per poter garantire i crediti che vanno facendo. Al 349-238-6666 arrivano alcuni sms proprio riguardo alle piccole aziende, alle piccole imprese. Quello che sento dagli imprenditori è che a settembre non sono sicuri se riaprire o chiudere. E allora Focus Economia continua a proporvi delle testimonianze proprio dirette degli imprenditori sul territorio, alle prese con gli effetti della crisi. Oggi siamo in collegamento con Alberto Vanzini, titolare di un'azienda a Ierago Conorago, in provincia di Varese. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei. Allora, signor Vanzini, intanto ci racconti, lei è titolare della Fratelli Vanzini Meccaniche, ci racconti che cosa fate? Sì, lavorazioni meccaniche contro terzi, lavorazioni di precisione, La nostra ditta è nata da mio zio e mio papà nel 47. Diciamo che poi a un certo punto sono subentrati i figli, in realtà attualmente siamo due cugini a gestire questa attività. Abbiamo volutamente mantenuto l'azienda piccola, diciamo di dimensioni ridotte, perché non ci interessava ingrandirci più di tanto, però ci interessava più che altro investire in nuove tecnologie e quindi rimanere sempre all'avanguardia per quanto riguarda i macchinari. Signor Vanzini, per piccole dimensioni lei che cosa intende? Beh, diciamo sotto i 15 dipendenti. Attualmente quanti dipendenti avete? Allora, fino a ottobre dell'anno scorso ne avevamo 14. Sì, poi qualcuno ha trovato per fortuna sua qualche altra sistemazione, perché da ottobre dell'anno scorso sono iniziati a crollare gli ordinativi, di conseguenza il fatturato. Allora, mi racconti però che cosa succedeva prima dell'ottobre scorso, cioè qual era il vostro giro d'affari, la vostra attività fino a settembre-ottobre dell'anno scorso, in che modo lavoravate? Allora, avevamo su certi impianti, lavoravamo 24 ore su 24 fino alla fine di settembre del 2008. Avevamo organizzato dei turni e avevamo anche difficoltà ad accontentare i clienti. Questo proprio è durato da settembre del 2007 a settembre del 2008. E qual era, se posso chiederglielo, il vostro giro d'affari? Ma allora, le posso dire in percentuale di quanto è crollato? Posso dirle che se non fosse crollato a ottobre, sì, avremmo incrementato rispetto al 2007, nel 2008, di un 25-30%. Invece c'è stato un crollo tale per cui il 2008 è andato alla pari del 2007. E mediamente attualmente, diciamo da ottobre dell'anno scorso ad oggi, stiamo fatturando il 65-70% in meno. Quindi abbiamo dovuto necessariamente, per la prima volta in tutti gli anni in cui operiamo in questo settore, sì, la prima volta abbiamo dovuto necessariamente appoggiarci alla cassa integrazione in deroga piuttosto che... Certo, e qual è la prospettiva per i prossimi mesi? Cioè, immagino che anche voi sarete molto preoccupati per il dopo estate. Sì, siamo parecchio preoccupati, anche perché non vediamo segnali reali. Guardi, mi è arrivato un ordine adesso che ho trattato questa mattina con consegna martedì di settimana prossima. Ecco, viviamo in questo modo, cioè tentiamo di sopravvivere in questo modo, ma ordini di importi che irrisori proprio. E per quanto riguarda il dopo ferie, lì sarà tutto da vedere, da verificare, perché purtroppo qui nella nostra provincia, e penso, avendo io contatti comunque anche con rappresentanti di macchine utensili, così, mi raccontano di quello che loro giornalmente incontrano anche in altre zone, provincia, certo, di Como, piuttosto che, non so, vicino a Saronno, nel Saronnese, piuttosto che intorno a Milano. E quello che mi sento riferire quasi quotidianamente è che la media di calo di lavoro è intorno a, va dal meno 60 al meno 90%. Senta, signor Vanzini, lei che cosa ha detto, lei e suo cugino, che cosa avete detto ai vostri dipendenti appunto per i prossimi mesi, come cercherete di comportarvi anche verso coloro che lavorano per voi? Le persone che lavorano con noi sono in primo luogo, prima di tutto, dei nostri collaboratori, e ci stanno aiutando in tutti i modi, quindi sanno perfettamente che noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare e ci stanno aiutando. Chiaro che hanno dovuto accettare purtroppo la cassa integrazione in deroga, speciale in deroga, Abbiamo tre persone che continuano comunque a essere presenti per 8 ore al giorno e qualcuno ha avuto la fortuna di trovare, ripeto, altre sistemazioni anche in altri settori, non so come siano riusciti perché certo. Non è di certo un momento, però è andata così, io sono ben felice per contento loro. Contento per loro. Sicuramente. Senta, signor Vanzini, ovviamente c'è un problema di ordini e questo è legato alla crisi che stiamo vivendo, ma ci sono anche delle altre problematiche, mi riferisco ad esempio a una stretta creditizia a cui più volte si è riferita anche la Presidente di Confindustria come un problema molto forte, molto sentito, che forse anche voi avete incontrato, non so, le chiedo. Sì, sì, ma certo, diciamo che sto parlando in generale, sì. Dico, sinceramente io per il momento, avendo dei rapporti con le banche buoni, anche perché... Cioè, insomma, essendo tanti anni... Certo che è in commercio. Ecco, diciamo che per il momento non mi hanno ostacolato più di tanto, nel senso che non mi hanno chiuso i rubinetti, per cui... Però so per certo che... Cioè, è quello che succede, è successo fino adesso, non è detto che domani non mi chiamino e non mi dicano... Certo. Ecco, quindi è un problema reale, questo è un problema reale, però non mi sento di incolpare, cioè, le banche piuttosto che il governo, piuttosto che le istituzioni, piuttosto che le associazioni di categoria, perché la situazione penso che sia comunque abbastanza complicata da gestire, ecco. minuti 349-238-6666 per i vostri sms. Dunque riprendiamo questa intervista con Alberto Vanzini, titolare della Fratelli Vanzini Meccanica, azienda di Ierago Conorago in provincia di Varese. Venerdì scorso il governo ha varato il decreto, un decreto con le misure di aiuto all'economia, in particolare la detassazione degli utili reinvestiti entro il giugno del 2010 e poi un intervento sulla burocrazia e poi la velocizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per cui sono stati messi a disposizione 23 miliardi di euro. Signor Vanzini, lei da piccolo imprenditore come valuta questi provvedimenti? Ma questo penso sia positivo, il reinvestimento... Sì, ma io volevo sapere anche se ha un impatto, come dire, di un qualche peso su di voi che siete piccole e medie imprese. Questo non potrebbe a cascata arrivare anche a noi, potrebbe, dipende, questo non sono in grado di darle una risposta. Penso che sia positivo comunque, perché se si riesce a riorganizzare tutto in un modo un pochino più, diciamo, arrivare ad avere dei pagamenti certi entro determinati termini, arrivare cioè non fare le cose come succede normalmente qua da noi, ecco, che uno In modo più equilibrato, insomma, per tutti, più equilibrato, ma che valga un po' per tutti. Per quanto invece riguarda cosa mi ha parlato dell'utile, sì, della detassazione degli utili reinvestiti, ecco, lì penso che su di noi non abbia proprio alcun beneficio, perché noi non solo non abbiamo più utili, noi siamo totalmente in perdita. Quindi se qualcuno potrà, anche perché noi, faccio un passo indietro, negli anni scorsi abbiamo fatto grossi investimenti, in questo momento non solo non siamo in condizione di poterlo fare, anche perché le banche o le società di leasing sono molto restie a concedere nuovi leasing, no? Sì. E poi non avrebbe neppure motivo, che senso ha che io vada a investire, non so, 500.000 euro per un'attrezzatura, una macchina produttiva, quando non, dopo dovrei tenermela lì ferma. Quindi saranno agevolate probabilmente industrie che hanno le spalle molto più grosse delle nostre e non è detto che anche in questo caso trarremo magari anche noi un beneficio più avanti, però noi in questo momento beneficio immediato non ne abbiamo. Senta, e secondo lei, visto che prima stava dicendo non mi sento di colpevolizzare, criminalizzare banche e quant'altro, governo, enti locali, c'è qualcosa che secondo voi, anche perché so che lì comunque la comunità di imprenditori, piccoli e medi che siano, è abbastanza coesa, per cui avete cercato di unirvi, di dare voce unica a quelle che sono le vostre necessità, le vostre anche paure, e, insomma, cosa vorreste, cosa auspicate e cosa forse anche in che cosa voi avete mancato forse anche? Beh, noi il grosso errore che abbiamo fatto è che noi non siamo mai usciti dalle nostre aziende e abbiamo magari lavoravamo magari 14-15 ore e non ci siamo preoccupati più di tanto del fatto che erano esagerate le tasse che andavamo a pagare e non abbiamo sempre accettato tutto facendo conto quasi esclusivamente sulle nostre forze e qui abbiamo sbagliato, secondo me avremmo dovuto rimettere qualcosa in discussione un pochino prima, vedi IRAP, vedi IVA per cassa, perché se io anticipo l'IVA e il mio cliente mi paga dopo 8 mesi, io vado avanti per 8 mesi o 6 mesi a fornire questo cliente, io no, tutto quanto d'IVA ho anticipato è persino un importo maggiore di quello che mi rientra alla fine, no? Sì. Ora che recupero anche quello, certo. Non mi sono spiegato molto bene. No, però il concetto è abbastanza chiaro, anche perché ovviamente questo è stato un problema comune a tutti voi che avete avuto sempre questo onere dell'anticipo dell'IVA, insomma. La burocrazia, lei tenga presente che in una ditta piccolina come la nostra, diciamo 10 dipendenti, tra la 626, che è giusto che esista, tra adesso non mi vengono in mente tutte, però io so per certo che la mia impiegata perde un sacco di tempo appresso a tutte queste menate. Forse mi permetto di dirle che la 626 era quella meno indicata da citare, perché ovviamente è una questione della sicurezza, sì. Come immagino che stia ovviamente a cuore anche a lei, a maggior ragione perché ha pochi dipendenti e quindi immagino sarete come, no, non dico come una sorta di famiglia, ma certo, quasi, e per cui non ho dubbi che questo sia un suo primario interesse. Ecco. No, ma è certo, no, ma io ho capito che cosa voleva dire. 626. Io dicevo che adesso me ne stava venendo in mente un'altra, ma è sfuggita. Vabbè, comunque diciamo il carico burocratico vi leva molto tempo. Ci porta via un sacco di tempo e siamo costretti a perdere ore produttive e dirottarle su altre cose che in alcuni casi sono utili. Poi altra cosa, le varie certificazioni che certi nostri clienti richiedono che noi ci si certifichi. Noi garantiamo comunque, senza necessariamente dover pagare un ente che ci certifichi, un livello qualitativo. Abbiamo i nostri metodi per gestire l'azienda. Non abbiamo bisogno, e anche questi sono dei costi in più. Certo. Certo. Senta, signor Vanzini, io so che voi avete messo su anche, vi siete, come dire, un po' attrezzati, avete messo su dei blog. Sì, allora, l'iniziativa è partita da Torino, da Cuneo esattamente, hanno aperto un blog, Imprese che resistono Piemonte, e in contemporanea io stavo organizzando a Ierago un convegno con alcuni rappresentanti politici, alcuni rappresentanti delle varie associazioni. Sì. Ovviamente ci siamo sentiti io e questo mio collega di Cuneo e erano presenti pure loro a Ierago, nel frattempo loro avevano già fatto una riunione con le loro varie associazioni. Certo. E a questo punto anche qui anche noi a Ierago abbiamo deciso di aprire su Facebook un gruppo per poter allargare il dialogo con tutti i piccoli e medi, che oltretutto un risultato l'abbiamo già ottenuto, non indifferente secondo me, perché molte persone che si sentivano particolarmente sole, abbandonate, certo, che picchiavano la testa contro le banche piuttosto che contro i clienti, piuttosto che contro, si sono rinfrancate un po' perché hanno detto vabbè, non siamo soli. Esatto, non siamo soli. Anche perché, insomma, lì dalle vostre parti c'è chi dice che rischiano di chiudere nel prossimo inverno 2000 ditte. Sì, ma è stato molto ottimista il nostro caro presidente dell'Associazione Artigiani, è stato molto ottimista, perché la situazione, secondo me, è molto molto peggio, è molto molto peggio. Quello che temo io è che poi si crei un effetto domino tale per cui le banche stesse, ho avuto la sensazione che si stiano preoccupando di questa cosa, perché la provincia di Varese, dati che io non ho avuto modo di verificare, però me li hanno riportati qualcuno delle associazioni, sì, pare che il PIL della provincia di Varese corrisponda al PIL di tutta la Liguria piuttosto che al PIL di tutto il Friuli, mi sembra. Quindi noi abbiamo una concentrazione di piccole e medie aziende che è incredibile. Ogni famiglia di 4 persone, questo è stato fatto un conto, sì, sul numero degli abitanti, è come se in ogni famiglia di 4 persone ci fosse una partita IVA. Sì, sì, certo. Beh, lì diciamo che l'ultimo dato che abbiamo è 57 aziende ogni chilometro quadrato. Sì, sì, sì, sì, sì, è una cosa... E certo, la concentrazione è indicativa in questo caso. Senta, signor Vanzini, so che vi state organizzando anche per una manifestazione. Sì, abbiamo deciso, anche qui l'iniziativa è partita dal Piemonte e noi la stiamo appoggiando. È una manifestazione silenziosa, apolitica, senza... non ci saranno nulla di che richiami a qualche nulla che richiami un partito piuttosto che un altro. Non volete bandiere, insomma? Non vogliamo bandiere. Noi, sì. Poi noi sarebbe la prima volta che usciamo dal nostro dalla nostra attività esponendoci, ma non vogliamo, ripeto, non ce l'abbiamo con nessuno, vogliamo solo far capire, già, anche se l'avranno già capito in molti, ma che la nostra posizione attualmente è molto molto a rischio, ma non solo la nostra. Allora, i miei dipendenti perdono il posto e io mi mangio quello che ho, io, ma piuttosto che tanti miei colleghi hanno dovuto mettere in gioco le proprie case piuttosto che... Certo. Per poter stare in piedi, per far fronte a... Queste sono cose che mi riportano, io so per certo che situazioni del genere sono all'ordine del giorno. Certo, però lei mi deve dire dove e quando questa manifestazione e poi che cosa chiedete, perché non è che potrete, cioè che andate solo per, come dire, dimostrare la vostra, lo stato in cui state vivendo e portando avanti le vostre aziende, qualcosa chiederete? Allora, le stesse richieste che sono state dirottate a Torino dalla presidente della provincia, la revisione dell'IRAP, l'IVA per cassa, meno burocrazia, se fosse possibile congelare per un certo periodo di mesi i debiti che abbiamo nei confronti dei leasing, in quanto non fatturando basta un niente per finire su... Eh sì, sulla lista nera. Ecco, basta un niente e poi allora va a finire che, certo, uno poi viene bloccato in contemporanea da tutte le banche, non ha più possibilità di venirne fuori. Però dove? A Roma? Ah sì, la faremo a Roma il giorno 14 luglio. Non so esattamente ancora in che orario perché in quale zona di Roma. Però è già stato deciso per il giorno 14 luglio, sono coinvolti sicuramente il Piemonte, sicuramente la Lombardia, penso che anche il Veneto si stia attivando per partecipare. A questo punto anche tutti coloro che vorranno aderire. Ma sicuramente, perché oramai a livello nazionale io ho ricevuto una telefonata qualche giorno fa da un'azienda, da una ditta di Latina, mi arrivano chiamate oramai un po' da tutta Italia. Da tutta Italia. E questa sensazione di abbandono e di malessere oramai gira. Beh, certo. Signor Vanzini, io la ringrazio molto. Io ringrazio lei per avermi dato questa opportunità. Arrivederci. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Sono arrivati anche un po' di sms mentre sentivamo il racconto del signor Vanzini. Intanto un'altra testimonianza da Reggio Emilia: anche a Reggio nel settore metalmeccanico siamo sotto del 70-80%, non sappiamo come fare, e anche qui c'è un'accusa nei confronti delle banche. Però ci scrive anche un direttore di banca che si complimenta con il signor Vanzini, dice: troppo facile sparare sulle banche per partito preso, non è sempre così. E poi ancora qualche sms più critico, alcuni ascoltatori si chiedono dove sono finiti gli utili che le aziende piccole e medie che siano hanno fatto negli anni passati, che fini hanno fatto appunto questi utili. E poi ancora, l'unica cosa che serviva a noi piccoli era sospendere gli studi di settore, ma non è stato fatto. Questo ce lo scrive un artigiano di Bergamo. Sono le 17:48, mancano solo a pochi secondi. Allora, c'è chi ci chiede il contatto del signor Vanzini. In questo momento io non ricordo esattamente l'indirizzo del blog, ma basta cercare Imprese che resistono, tutto attaccato, in internet, su Google esattamente, e si può ritrovare tutto il percorso e tutto il sistema di imprese che si stanno mettendo insieme per cercare di fare delle richieste che vadano in un'unica direzione, quindi quello di sostenere questo tessuto di piccoli e medi imprenditori. Per il momento appunto ci sono questi contatti tra il Piemonte e la Lombardia, ma si stanno unendo anche il Veneto e tutte le altre regioni che vorranno, ovviamente tutti gli altri piccoli e medi imprenditori che vorranno unirsi. Poi ricordiamo che questa manifestazione si svolgerà a Roma il 14 luglio prossimo. Adesso per noi è venuto il momento di andare a vedere che cosa è successo sui mercati. L'abbiamo già detto in apertura di programma: oggi listini orfani di Wall Street, chiusi per la festività del 4 luglio, anticipata di un giorno, perché ovviamente domani è il 4 luglio ed è sabato. Allora, la chiusura in Europa: Parigi è riuscita a guadagnare poi sul finale più 0,10%, Francoforte ha chiuso con una flessione dello 0,22%, piatta praticamente Londra. A Milano anche qui chiusura abbastanza, diciamo, piatta: il FTSE Italia All Share ha ceduto lo 0,05%, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,07%. Oggi cercherà di fare luce per noi sui listini milanesi Paolo Paronetto, collega di Radiocor, che saluto. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo già detto il fatto che i listini europei siano stati orfani di Wall Street ha poco movimentato, diciamo, ha fatto sì che la giornata fosse poco movimentata. Sì, certo, è stata una giornata abbastanza priva di spunti in Europa, e i listini hanno risentito della mancanza di Wall Street, che in questo periodo è guardata proprio come una bussola, anche perché si avvicina la stagione delle trimestrali, comincerà la prossima settimana Alcoa, e quindi i mercati guardano un po' a quella piazza per capire se si può davvero pensare di essere al di fuori della crisi o di andare verso un lento recupero, o se ci dobbiamo aspettare ancora delle sorprese. Sugli listini europei ci sono stati quindi principalmente movimenti tecnici, e i volumi sono stati decisamente tranquilli. Paolo, veniamo a noi, veniamo a Milano. Il miglior titolo è stato il Banco Popolare, più 5,33%, recupera dopo il tonfo di ieri, era stato il peggior titolo nella seduta di ieri. Esattamente, il Banco Popolare oggi ha guadagnato oltre il 5% dopo aver perso oltre il 5% ieri in serata. La società ha annunciato la riapertura del periodo di offerta per l'OPA su Banca Italease. Il Banco Popolare infatti ha chiuso l'OPA raggiungendo l'84% di Italease, che è una soglia che consente al banco di avere la maggioranza dei 2/3 necessari in assemblea per varare tutte le operazioni straordinarie previste dal piano di riorganizzazione di Italease, ma non consente il delisting della società, che era nei piani dell'Istituto Veronese. Quindi, come previsto da molti analisti, ieri il banco ha annunciato la riapertura dei termini. L'OPA quindi sarà riaperta tra il 9 e il 15 luglio a un prezzo invariato di 1,5 euro per azione. Segue quindi subito dopo il titolo Ansaldo, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,7%. Sì, per Ansaldo in questo periodo si tratta di un andamento che resta sui massimi assoluti. La società è tornata ad avvicinare la soglia psicologica di 13,5 euro che ieri aveva superato per un breve periodo, e il settore è abbastanza sotto i riflettori dopo la maxi commessa di 15 miliardi di euro in arrivo ad Alstom dalle ferrovie francesi. Infatti anche Alstom sul listino francese ha già guadagnato l'1,3%, quindi registrando una seduta positiva. Ansaldo comunque registra un andamento in rialzo ormai da molte sedute, appunto si mantiene sui massimi di sempre. Oggi bene Luxottica, cominciamo un po' a scendere tra i titoli del FTSE, Luxottica ha guadagnato lo 0,46%. Limando un po' i guadagni sul finale, durante il corso della seduta aveva guadagnato anche oltre l'1%, comunque ha chiuso a più 0,46, e oggi i titoli hanno beneficiato di un report positivo degli analisti di HSBC che hanno migliorato sia il giudizio, che è stato alzato a overweight dal precedente neutral, è stato decisamente alzato l'obiettivo di prezzo, che diventa di 40 euro dai 29 precedenti. Quindi il titolo è stato sostenuto da questo giudizio e ha chiuso in rialzo la seduta. Paolo, andiamo a vedere il titolo Pirelli. Ieri era stato uno dei due che erano riusciti a mantenersi in territorio positivo, anche se ovviamente di poco, vista la giornata di ieri, che ricordiamo è stata veramente pesante per tutti i listini europei. Oggi Pirelli conclude in fondo al listino il peggior titolo, meno 3,6%. Anche qui non gli analisti, gli operatori non segnalano motivi particolari, si tratta di movimenti tecnici. Come ricordavi tu, ieri è stato uno dei pochi a resistere alla nota di vendita, chiudendo in rialzo dello 0,8%. Nel giorno ieri in cui Marco Tronchetti Provera, il presidente della società, aveva annunciato un piano di investimenti da 200 milioni di dollari in Brasile e ha aperto anche la possibilità di investire in Libia e Arabia Saudita. Dopo la giornata positiva in fondo di ieri, oggi sono scattati i realizzi e alcune vendite che hanno spinto il titolo in coda all'SP MIB, dove ha chiuso a meno 3,6%. Facciamo un discorso più complessivo sui petroliferi, piuttosto deboli oggi. Il calo del petrolio avrà influenzato ovviamente in questo caso il settore? Certo, oggi è la seconda giornata consecutiva di calo per il petrolio, che ieri ha perso 3 dollari al barile circa e oggi sta perdendo un altro 1%, e per quanto riguarda il WTI viaggia ormai sulla soglia dei 66 dollari al barile. L'andamento del greggio ovviamente pesa su tutto il comparto energetico, che a livello europeo ha perso circa mezzo punto percentuale, e a Piazza Affari pesa in particolare sui titoli Saipem, che hanno perso l'1,97%, e su quelli dell'Eni, che ha ceduto lo 0,65%. Paolo, tra i titoli cosiddetti minori, sale Trevisan grazie a un accordo con un nuovo gruppo di investitori? Sì, oggi Trevisan, appunto, era da un po' di tempo che il mercato si aspettava qualche novità nell'azionariato, e oggi è arrivata la notizia di un accordo con una nuova cordata di imprenditori che è pronta a salire al 50,1% della società e quindi a rilevare la maggioranza della società. Il mercato ha accolto positivamente la notizia, che dà probabilmente, secondo il giudizio degli investitori, nuove prospettive al gruppo, e oggi il titolo ha guadagnato il 4,15%, chiudendo a 0,74 euro circa e facendo registrare una delle migliori prestazioni di tutta Piazza Affari. Ci sono delle notizie relative a Piaggio. Il piano strategico per il periodo 2009-2012 del gruppo prevede a fine periodo un fatturato consolidato di 1,8 miliardi circa di euro, con un margine operativo lordo oltre i 248 milioni. E poi ancora ovviamente ha parlato Colaninno, l'amministratore presidente, amministratore delegato del gruppo Piaggio. I risultati 2009 sono positivi nonostante questa congiuntura, abbiamo contenuto la discesa. Colaninno ha detto non ci saranno miracoli né quest'anno né nel 2010, e poi ancora distribuiremo dividendi veri. Paolo, il titolo com'è andato? Sì, il titolo dopo aver trascorso gran parte della giornata poco mosso, alla fine ha risentito in particolare della cautela appunto mostrata da Colaninno, come ricordavi tu, sia sul 2009 che sul 2010, cautela o realismo, insomma comunque non si parla di miracoli, ha detto Colaninno, e quindi alla fine il titolo ha perso, ha chiuso a meno 4,67%, terminando la giornata a 1,41 euro. Grazie a Paolo Paronetto, collega di Radio Cora, per essere stato con noi in quest'ultima giornata della settimana. A lui buon lavoro, buona serata, anche buon weekend a questo punto. Noi dobbiamo raccontare, a proposito a questo punto del settore bancario, quanto è stato detto oggi in un briefing a Milano di Moody's a proposito proprio del settore italiano, quello bancario. Quando una banca soffre un po' può diventare vulnerabile ed essere acquisita. Secondo me, questo è quanto ha detto il vicepresidente di Moody's Italia, quando passerà questo momento di crisi, questa possibilità si verificherà per lo più a livello delle banche regionali, e si riferiva ovviamente alle piccole banche italiane. Per il sistema finanziario italiano, ha detto il vicepresidente di Moody's Italia, McNiven, saranno 2 anni difficili, ci aspettiamo una recessione per quest'anno e forse stagnazione per il 2010. Alle 18:08 parte la seconda fase di Focus Economia. Nella prima parte del programma abbiamo parlato delle piccole e medie imprese italiane, di come stanno vivendo questa crisi, abbiamo avuto una testimonianza, poi abbiamo parlato dei mercati, di quello che è successo oggi. Vi ricordo che oggi è chiusa Wall Street e questo ovviamente ha privato di spunti e di stimoli i listini europei, che infatti hanno chiuso tutti con debolissimi guadagni, se non sostanzialmente in parità. 349-238-6666 per i vostri sms. Notizie in breve. Ripartiamo dal petrolio, in calo in after hours a $66.31 al barile. Negli Stati Uniti ci vorranno ancora mesi per uscire dalla crisi, questo è quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, commentando le nuove e negative cifre della disoccupazione statunitense, salita al 9,5%, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri. Restiamo negli Stati Uniti perché c'è una nuova ondata di fallimenti bancari, 6 banche dell'Illinois e una del Texas sono state poste sotto sequestro, portando il totale dei crack bancari di quest'anno a 52, un livello che non si vedeva dal 1992, mentre il pacchetto di misure d'emergenza voluto dall'amministrazione Obama sembra aver tamponato l'emorragia delle grandi banche, sono spesso gli istituti regionali ad accusare il colpo della recessione, delle crescenti insolvenze sui crediti concessi sulla casa e le proprietà commerciali e dei prodotti del credito strutturato finiti male. Però che cosa succede? Che secondo gli analisti del Wall Street Journal quest'anno Goldman Sachs spenderà circa $20 miliardi in remunerazioni, più o meno €700.000 a dipendente, il doppio dei $10 miliardi che la banca ha ricevuto dai contribuenti americani. Un dato davvero impressionante, sia tenendo presente lo scenario internazionale, sia in considerazione del fatto che persino nel 2007, in un contesto congiunturale completamente differente, le remunerazioni medie si erano fermate a $661.000. In Italia ora, se Obama dice che ci vorranno ancora dei mesi per uscire da questa crisi, il Presidente del Consiglio dice che ciò che di peggio doveva accadere è già accaduto. Berlusconi lo ha detto parlando al workshop L'Aquila Day al Ministero dell'Economia. Sentiamolo. Ciò che di peggio doveva accadere è già, a mio parere, accaduto. Ciò che doveva accadere nel mondo delle banche e ciò che doveva accadere per quanto riguarda la svalutazione degli assets nei mercati è accaduto. Chi doveva fallire è fallito, chi si doveva togliere dal mercato si è tolto. Oggi tutti coloro che facevano della speculazione sui mercati, la loro principale occupazione non è più presente sui mercati. Oggi quindi, a me non pare assolutamente che ci siano altre situazioni che dobbiamo temere.

Cioè noi cresciamo se crescono le imprese, cioè noi siamo in quel business lì e stiamo cercando tutti i modi per trovare anche le modalità in un periodo difficile come questo per farlo. Le cifre che stiamo mettendo a disposizione secondo me poi sono fattualmente la dimostrazione di questa volontà. Sentiamo anche Giuseppe Morandini, vicepresidente di Confindustria e presidente della piccola industria. Quello che ci unisce alle banche in questo momento, è la in particolare con Corrado Passera, è la condivisione di una responsabile preoccupazione per le difficoltà che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. Questa banca ha deciso di mettere a disposizione della piccola impresa tre strumenti che entrano nella gestione quotidiana e che migliorano la gestione degli insoluti, la patrimonializzazione e la possibilità di spostare i mutui di almeno un anno. C'è la necessità poi che intervengano anche misure fiscali che consentano la patrimonializzazione delle piccole imprese, ci aspettiamo la detassazione degli utili che rimangono in azienda, ma soprattutto ci aspettiamo una bella moratoria su Basilea 2, perché i parametri di Basilea vuol dire non dare credito nel 2010 alle nostre imprese. Le 18 e 19 minuti, adesso è venuto il momento di approfondire un altro dei nostri temi, l'industria della carne lavorata italiana. Partiamo dai dati, la produzione di salumi supera la 1,17 tonnellate, il fatturato è di 7,5 miliardi, l'esport ha tenuto lo scorso anno, inviate all'estero oltre 106.000 tonnellate di prodotti della nostra salumeria con un incremento dello 0,3% per un valore di circa 832 milioni di euro, anche qui 1,5% di incremento. L'export per prodotti, il prosciutto crudo è quello più esportato, quasi la metà del totale. L'attivo commerciale del settore è pari a 682 milioni di euro. L'Italia è il primo paese in Europa per tipicità. Ci sono 31 prodotti che hanno ottenuto i riconoscimenti DOP e IGP. Un settore dunque che lo scorso anno ha sostanzialmente tenuto nonostante la crisi, come ci ha spiegato Francesco Pizzagalli, che è il presidente dell'Associazione Industriale delle Carni, aderente a Confindustria. È un'associazione che riunisce circa 200 aziende. Sentiamo. Il 2008 è stato un anno complessivamente di tenuta. I dati che abbiamo vedono una leggerissima contrazione in termini di tonnellate prodotte rispetto al 2007, un abbassamento intorno allo 0,7% e con un leggero miglioramento di un 1% invece per quanto riguarda il fatturato complessivo. Il 2008, nonostante le difficoltà del secondo semestre, è stato un anno in cui il settore ha tenuto. Il discorso cambia se si guardano un po' i primi quattro mesi del 2009. Abbiamo uno scenario che vede alcuni prodotti che sostanzialmente tengono, altri prodotti, in particolare le carni fresche, dove invece anche a seguito purtroppo della famosa influenza di origine messicana, che impropriamente è stata un po' attribuita ai maiali, questo ha generato un calo dei consumi. Ecco, Presidente, volevo capire, oltre all'influenza, appunto erroneamente detta poi influenza suina, c'è anche un'influenza della crisi e quindi mi spiego meglio, questo calo ha colpito di più quei prodotti che sono più cari, magari a vantaggio di prodotti che invece più economici sono più accessibili a tutti? Sicuramente nei primi quattro mesi dell'anno ha influito anche la situazione generale dell'economia sia nel nostro paese sia anche ovviamente sui mercati esteri. Questo è un po' il dato di novità rispetto agli altri anni. Se è pur vero che durante il 2008 anche l'export è cresciuto leggermente di 1,5%, i primi quattro mesi di questo 2009 vedono invece una contrazione dell'export. Soprattutto questa contrazione è riferita a quei prodotti che erano in genere un po' il fiore all'occhiello, quindi anche quelli che in termini di prezzo di vendita sul mercato avevano con le quotazioni più elevate. Assistiamo a una contrazione di prodotti come il prosciutto crudo, taluni prodotti DOP, perdita perdita che è compensata invece da altri prodotti più avvicinabili come prezzo, come la mortadella, i booster, le pancette, dove invece lì si è avuto un incremento di consumi già nel 2008, confermato anche nel corso del 2009. La crisi dei consumi non riguarda soltanto il mercato nazionale, ma coinvolge tutti i mercati, sia quelli europei sia extraeuropei. Ad esempio, è significativo una contrazione di questi prodotti DOP su mercati, ad esempio, dell'estremo oriente piuttosto che sul mercato americano. Presidente, per quanto riguarda la materia prima, perché in molti nel settore alimentare, dal punto di vista dei produttori, si sono lamentati del costo della materia prima, che ha messo in difficoltà non poche aziende. Riguarda anche voi questo problema? Fino a poco tempo fa ha visto il nostro settore non dover soffrire di eccessivi aumenti di costo della materia prima. Noi abbiamo addirittura una materia prima, che è quella che proviene dalla produzione dei maiali, che nel corso degli ultimi anni ha tenuto un trend in linea, non ha avuto delle grosse punte in alto né delle grosse punte in basso. Il fatto è che ovviamente il settore suinicolo, il settore della zootecnia, viene da anni di crisi. Questi anni di crisi hanno avuto la punta tra la fine del 2007 e la prima parte del 2008, quando c'è stato un aumento spropositato delle materie prime alimentari, del famoso crisi dei cereali, e questo ha prodotto una situazione di grosse difficoltà a tutto il settore dell'allevamento, che doveva pagare in modo pesante l'alimentazione, con aumenti che andavano anche sopra il 50% mediamente rispetto a quello a cui normalmente si era abituati, e non avendo un'adeguata remunerazione a valle del maiale. Il settore non ha avuto, come altri settori, problemi di costi di materia prima. Incomincia ovviamente questa crisi che si è generata nel settore suinicolo, incomincia ad avere degli effetti, per cui noi prevediamo che potrebbe essere a rischio il discorso del costo della materia prima nei prossimi mesi. La preoccupazione che ha l'industria di trasformazione è che oggi si trova un po' in una situazione in cui, se dovesse trovarsi a pagare più cara la materia prima, ha grosse difficoltà a valle, quindi col mondo della distribuzione, a recuperare questo maggior costo che potrebbe trovarsi a dover sostenere nei prossimi mesi. Avete assistito alla chiusura di alcune imprese, intanto ricordiamo ad esempio a quanta gente dà lavoro questo settore? Beh, questo settore dà lavoro a circa 40.000 dipendenti, piccole, medie e grandi aziende, un po' su tutto il territorio nazionale. Le aziende sono aziende strettamente legate al territorio, perché spesso sono aziende che sono nate in ambiti territoriali legati a tradizioni produttive molto specifiche. Ciò che contraddistingue le nostre aziende è che i nostri prodotti si devono fare qui, non si può delocalizzare l'azienda. Il prosciutto di Parma va fatto nell'area del prosciutto di Parma, il prosciutto di San Daniele si deve fare nell'area del prosciutto di San Daniele. Noi non abbiamo avuto aziende che hanno chiuso, che hanno prodotto ore di cassa integrazione. La preoccupazione è guardando lo scenario che avremo davanti nei prossimi mesi. Si sa che oggi il mondo dell'industria e il mondo del settore primario dell'agricoltura, assieme, del valore di un prodotto detengono soltanto il 48%, il 52% ormai è nelle mani del mondo della distribuzione. Uno dei grossi problemi che abbiamo è di riequilibrare questa differenza di valore attribuito al prodotto. L'ultima domanda, riferita ovviamente alla qualità dei prodotti italiani, che è sicuramente un fattore di successo nelle esportazioni. Allora io le chiedo se anche voi siete colpiti da fenomeni di contraffazione e quali sono le politiche che avete messo in atto e che auspicate che vengano messe in atto per contrastare questo tipo di fenomeno. Noi siamo pesantemente colpiti dal fenomeno della contraffazione. Io potrei citarle un mio recente viaggio di qualche giorno fa a New York, al Fancy Food, che è la manifestazione più significativa dell'industria alimentare nel mercato nordamericano. L'abuso dei nomi di prodotti italiani, di bandierini italiani sui prodotti che poi vengono fatti in Canada piuttosto che in Pennsylvania, piuttosto che in Arizona, è una cosa veramente disarmante. Come difenderci da questo? Noi purtroppo oggi, anche con i prodotti tutelati, questa tutela riguarda soltanto il territorio nazionale. Abbiamo pochi strumenti, se non addirittura nulli, fuori dai confini nazionali, il che già in Europa significa dover avere pochi strumenti che difendono la tipicità e l'originalità dei nostri prodotti. Addirittura fuori dall'Europa questo è diventato un compito impossibile. Ci siamo mossi addirittura con l'aiuto anche dell'autorità di governo perché negli accordi di Doha ci fosse un'estensione della protezione dei prodotti DOP su tutto il mercato internazionale, ma la richiesta che noi portiamo avanti da anni trova una forte resistenza in parecchi paesi, in modo particolare la maggiore resistenza viene dai paesi nordamericani. E noi siamo in chiusura, solo il tempo di leggervi un'ultima agenzia: l'antitrust boccia anche il nuovo patto leggero siglato da Generali e Crédit Agricole su Intesa San Paolo, siglato lo scorso 25 giugno, è quanto si legge in una nota dell'autorità, secondo cui anche il nuovo accordo a durata triennale non ottempera alla condizione di garantire la necessaria indipendenza fra Crédit Agricole e Intesa San Paolo e il ruolo di terzietà della banca francese. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Filippo Aure. A tutti voi, buon weekend.